Benvenuti a Dedicato, mercoledì 20 novembre 2024. Bene, oggi è una puntata un po' particolare, devo dire, perché effettivamente intanto sono da sola in studio, questo non avviene spesso, quindi ne approfitto e mi piace pensare di parlare oggi di un argomento estivo, proprio perché l'inverno ormai è alle porte e noi di Dedicato amiamo l'estate e la primavera, ma non ci facciamo mancare niente neanche in autunno e in inverno, ovviamente. Quindi, visto che i ragazzi ormai si sono chiusi al caldo a suonare, non mi considerano più e mi lasciano qua da sola, io parlo di un progetto estivo, così metto a posto tutti e torno indietro col pensiero a quest'estate, ma non solo in realtà, perché questo progetto estivo è in un luogo e questo luogo è un luogo un po' della mia vita, ma della vita di parecchi di Dedicato, del nostro staff, quindi devo dire che ha coinvolto per vari motivi e vari incastri magici tanti di noi. Allora, il luogo è Vidiciatico, il progetto è Look Up e adesso vi spiego meglio di cosa stiamo parlando. Allora, Vidiciatico è un paese dell'Appennino tosco-emiliano, collocato subito sotto al Cornalescale, quindi meta turistica da parte di tutte e due le regioni, sia la Toscana che l'Emilia, e soprattutto turismo sia invernale che estivo, perché insomma gli sciatori d'inverno si trovano benissimo ad andare al Cornalescale perché non è lontano, ma è assolutamente meraviglioso. E allo stesso tempo d'estate per il fresco e per i boschi e le passeggiate, è veramente molto molto bello come territorio. Quindi noi abbiamo interagito con questo territorio perché? Perché qualche anno fa è nato un progetto che si chiama Look Up, che vede la collaborazione di diverse associazioni del territorio, ma non solo, come la Cineteca di Bologna, il Cinema La Pergola di Vidiciatico, l'Associazione Madre Selva, Agenda Produzioni per lo Spettacolo e diversi altri che ci hanno sostenuto negli anni, che crea momenti culturali e interazioni con non solo gli abitanti del territorio, ma anche con i turisti che arrivano nei momenti sia invernali che estivi. Quest'estate Look Up ha ospitato il laboratorio radio di Dedicato, quindi noi vari momenti abbiamo interagito con i bambini e i ragazzi che erano a Vidiciatico in vacanza e gli abbiamo insegnato un pochino di cose, anche se effettivamente, insomma, adesso ascolterete voi stessi che cosa è successo. Diciamo che dobbiamo fare un 2.0 del laboratorio di Dedicato, perché i bimbi nella loro creatività a volte dimenticano quello che gli viene dato come indicazione semifondamentale per fare una trasmissione radio, per esempio l'utilizzo del microfono, presentarsi, capire i momenti e cercare di non registrare mentre sta passando un autobus, ma questo noi lo vedremo appunto nel secondo incontro di questo laboratorio radio. Intanto gli facciamo veramente i complimenti per la creatività, la fantasia e la voglia di mettersi in gioco, perché i bambini sono stati veramente sul pezzo dall'inizio alla fine del laboratorio, che è durato 2 ore e mezzo abbondanti, e ci siamo divertiti tantissimo. Quindi bravi tutti i bimbi di Vidiciatico che hanno partecipato al laboratorio di Dedicato di quest'estate. Buongiorno, noi siamo della Dedicato, vorremmo intervistarvi. Come vi chiamate? Cristina e Paolo. Dove ci troviamo oggi? A Vidiciatico. Come vi sembra questo parco? Bellissimo. Bellissimo e fresco. Scusi, cane. Signor cane, lei come si chiama? Signor cane, può rispondere a queste domande? Signor cane, per favore, risponda. Vabbè, comunque, visto che voi non lo vedete, ho un cane davanti. Vero che ho un cane davanti? Sì. È vero? Sì. È vero? Sì. È vero? Sì. Cane, è vero? E non è vero. Salve, come si chiama? Bello, quanti anni ha? Qual è il suo colore preferito? E allora, quanti figli ha? Ok, ciao! Salve, come vi chiamate? Allora, io mi chiamo Ambra. Io mi chiamo Samuele. Ok. Perché lavorate qui? Perché abbiamo aperto un'attività. Vi piace tanto questa attività? Ci piace, sì, certo. Cos'è che vi fanno vendere di più? Noi speriamo che la gente compri le cose biologiche che abbiamo invece della Coca-Cola, abbiamo la cola e altri prodotti italiani biologici. E vediamo se va quello piuttosto che le robacce piene di zuccheri e caffeina. Vediamo se funziona quello. Ok, allora grazie dell'intervista. Grazie a voi. Noi siamo di Dedicato e vorremmo intervistarla, signora che dorme sulla panchina. Allora, iniziamo. Come si chiama? Perfetto, non ci vuole rispondere. Proviamo allora con un'altra domanda. Da quanto dorme su questa panchina? Ok, visto che è in un sonno profondo, la salutiamo e alla prossima intervista se vuole risponderci. È troppo forte. Ok, allora rifacciamo. Salve, signor dinosauro giocattolo, come si chiama? Mi chiamo... Dinosauro. Di che colore è lei? Sono verde. No, è verde... Scuro. Verde medio, verde scuro. Verde medio, in che senso? Che sia verde scuro. Vabbè, abbiamo capito. Chiaro. Ma chi da dove viene? Vengo da Vidiciatico. Qual è il suo colore che odia proprio, che non sopporta? Il rosso. Bene. Vabbè, ci potrebbe... Di che colore preferito ha? Il verde. Perché sei verde, giustamente. Grazie mille, ci sentiamo poi se diventa famoso. Se diventa famoso grazie a questa trasmissione, le manderemo un lingotto d'oro, grazie. Okay. E anche 1 miliardo di euro. Buongiorno. Ciao. Grazie di questa intervista, arrivederci. Ciao. Un saluto alla Radio Dedicato. Un saluto da Vidiciatico. Que eu quero passar. Pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu, samba como esse tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto feio, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Bellissimo pezzo, questa era la versione di Rio, cartone animato simpaticissimo e colonna sonora di questo cartone per l'appunto. Allora, abbiamo ascoltato prima di Maschenada le interviste improbabili dei ragazzi e bambini del laboratorio di Dedicato che abbiamo fatto quest'estate a Vidiciatico sull'Appennino Tosco Emiliano al fresco, evitando quindi il caldo bolognese cittadino. Noi ci siamo rilassati e divertiti a fare questi laboratori, ma Vidiciatico vive di tanto altro, perché c'è per esempio un meraviglioso cinema che è il Cinema La Pergola, che è gestito veramente in maniera fantastica, perché intanto sono tutti volontari, e questo ci tengo a specificarlo, perché il cinema ha dei costi altissimi e tutti i soldi che ci sono a disposizione vengono chiaramente investiti per far vivere questo cinema sia d'estate che d'inverno, perché la programmazione va anche nella stagione invernale, quando chiaramente il paese si popola anche il cinema, e quindi è veramente un luogo magico. Io oltretutto personalmente posso dire che l'ho vissuto veramente tanti anni, perché è stato il primo cinema in cui io ho visto un film quando ero bambina. Ho visto crescere questo luogo, l'ho visto fermarsi in alcuni momenti, e quindi adesso tanta gioia, perché il Cinema La Pergola deve assolutamente proseguire con le sue programmazioni, le sue attività, che oltretutto ci sono anche conferenze, presentazioni di libri, momenti di concerto. Quest'estate c'è stato un momento inaugurale della stagione estiva, dove insomma abbiamo avuto mercatini e varie persone che si sono interfacciate al cinema. Quindi se vi capita di andare a Vidiciatico, non perdetevi l'occasione di andare in questo cinema, che è un cinema veramente old style, ma tenuto in piedi dai volontari in maniera fantastica. I'm Too Much Time on My Hands, Styx. E dopo questo brano, allora torniamo al laboratorio dedicato di quest'estate a Vidiciatico, perché abbiamo altre interviste da farvi ascoltare. Oltretutto i nostri piccoli speakers ci chiedono: ma quando andiamo in onda? Quindi questa puntata dedicata a voi, veramente di cuore, e non smetterò mai di ridere di tutti i momenti che abbiamo vissuto insieme quest'estate. Quindi grazie bimbi. Ora mandiamo un'altra intervista, però prima ci tengo a dire che oltre al Cinema La Pergola e Look Up, che è appunto questo progetto a cui abbiamo aderito, ma che insomma posso dire siamo creatori anche noi insieme alla Cineteca, al Cinema, all'Associazione Madreselva, ci sono tante altre cose oltre a Look Up a Vidiciatico. C'è la Proloco, per esempio, che lavora sempre con volontari, e questo, ragazzi, non è da tenere poco in considerazione, da sottovalutare, perché il lavoro volontario oggi, insomma, diciamo che non è più tanto partecipato come una volta. Quindi in un paese piccolo come Vidiciatico i volontari della Proloco sono veramente pochi e devono, come dire, attivarsi per fare tutte le attività che propongono durante l'anno, e durante l'estate ce ne sono tantissime, appunto perché il turismo si incrementa, e sono veramente cose molto carine, molto interessanti che vengono proposte dalla Proloco. Quindi grazie anche alla Proloco di Vidiciatico. Oltretutto potrei salutarli per nome uno per uno, lo evito perché insomma non mi sembra caso me ne dimenticassi mai qualcuno, ma sono veramente persone che conosco personalmente e che stimo tantissimo per il lavoro che fanno, quindi ci tenevo a ringraziarle. E ascoltiamo adesso questa intervista, sempre fatta nel laboratorio dedicato dai nostri bambini. Ciao, noi siamo di Dedicato, dove siamo? Allora, siamo al Baracca di Vidiciatico e io mi chiamo Ambra e sono uno dei gestori di questo posto. Ciao, io sono Samu e sono il suo socio, più o meno. Come mai avete aperto qua? Beh, sicuramente era per ridargli un po' di vita, era chiuso da un po'. Beh, sì, questo poi perché abbiamo unito le nostre passioni, la passione per l'arte, per la musica, le nostre esperienze lavorative in campo di ristorazione, i nostri contatti, e abbiamo creato questo posto per dare un servizio di qualità e un posto dove le persone possono stare bene e divertirsi. Vi piace questo lavoro? Sì, certo. Quando arriva la merce, certe volte la assaggiate? Tutta, sempre. Dobbiamo sapere, no? Che cosa diamo ai nostri clienti, che tipo di qualità è. Per noi è fondamentale questo. I clienti devono avere il meglio. Se non l'assaggiamo noi non sappiamo che cosa diamo. Certe volte la rimettete a posto aperta la merce? No, se no si rovina, si ossida. No, ma poi non arriva aperta, in generale non arriva aperta la roba. Possiamo avere anche noi le nostre necessità, tipo bere una Coca-Cola e la rimettiamo nel frigo per nostro uso personale, ma non abbiamo la Coca-Cola, abbiamo la cola, quindi abbiamo un tappino a nostro e mettiamo da parte, quello sì. La merce quando vi arriva? In che giorni della settimana? Allora, questo è un po' più difficile, nel senso che ho dei fornitori che mi arrivano il martedì e il giovedì, ho dei fornitori che mi arrivano solo il giovedì ogni 15 giorni, ho dei fornitori che invece devo andare io a prendere la roba perché sono degli artigiani del posto e quindi devo andare io a prenderla. Più o meno, qual è la media dei caffè che vendete in un giorno? Allora, il caffè non è uno dei prodotti che noi volevamo puntare, infatti non ci stiamo puntando, perché comunque è un servizio che Vidiciatico già dà con il pergolino, col bar Elena, e quindi non era una cosa che noi interessava. Abbiamo una macchina a cialde, ogni tanto rimaniamo anche senza, ma non è il caffè quello che volevamo puntare. È un bar un po' particolare, un bar dove puntiamo più sull'arte, sugli eventi, sul cibo e sul bere, ma un bere, diciamo, di qualità. Quindi non è il caffè il nostro cavallo di battaglia. Ok, grazie e arrivederci. Grazie bimbi per queste interviste improbabili tratte dal nostro laboratorio estivo di Dedicato. Molto bene, io adesso però ci tengo a salutare una persona che è stata una persona molto importante per me e che purtroppo quest'estate è venuta a mancare, Quindi salutiamo Don Giacomo, che era il prete di Vidiciatico, questo paesino vivo anche grazie a lui, perché ha dedicato veramente tanti momenti e pensieri alla cultura, alla socialità e ai momenti insieme di questo paese. Quindi Don Giacomo è stato precursore di tante cose che poi sono successe in paese. Quindi grazie davvero, ci manchi tantissimo. Era un prete diverso, ci tengo a dirlo, perché ci sono cresciuta assieme e mi ha insegnato tante cose che i preti solitamente non mi hanno insegnato. Ecco, poi non vado oltre in questo discorso, ma ci tenevamo a salutarlo tutti in coro dallo staff di Dedicato, perché ci manca tanto. Adesso mandiamo l'ultima intervista, brevissima ma sempre improbabile, fatta dai nostri bambini e ragazzi, e vi salutiamo. Ci risentiamo la settimana prossima, sempre alle 13, sempre su Radio Città Fujiko con Dedicato. Grazie a Vidiciatico, alla Proloco, all'OCAP, al Cinema La Pergola, a tutti i bambini e alle famiglie che hanno partecipato al nostro laboratorio radiofonico di quest'estate. È stato bellissimo. Ciao! Come si chiama, signore? Grazie per il signore, mi chiamo Lorenzo Scuda. Ok, quanti alberi ha nel giardino? In questo posto qua di montagna dove ci troviamo c'è un giardino molto grande, ma non li ho mai contati, però potrebbero essere anche una ventina. Ok, quanti figli ha? Ho un figlio. Come si chiama? Si chiama Samuele. Aspetta, però lo devi vedere. Quanti capelli hai? Non li ho mai contati, un po' come gli alberi, ma direi una ventina. Ok, gli salutiamo. Ciao. Ciao, è stata un'intervista molto bella, grazie.